Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Scatterà per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, dopo l'attacco a Parigi, la clausola per la difesa comune, evocata ieri dal presidente francese e la cui applicazione è stata chiesta ed ottenuta questa mattina nel Consiglio dei Ministri della Difesa. È l'articolo 42 al punto 7 del Trattato di Lisbona. Europa unita dunque con la Francia. Sentiamo. L'Europa è unita. L'Europa è unita e chiede alla comunità internazionale, ai nostri vicini del mondo arabo, di mostrare la stessa determinazione. Oggi la Francia ha chiesto assistenza e aiuto all'Europa e l'Europa, tutta unita, risponde sì. Con queste parole, l'alto rappresentante Federica Mogherini ha annunciato la risposta positiva dell'Europa quando era ancora in corso il Consiglio di Difesa. I ministri della difesa dell'Unione Europea lo hanno infatti deciso a Bruxelles, all'unanimità, dopo che il ministro della difesa francese Jean-Yves Le Drian aveva chiesto ai partner europei riuniti una partecipazione militare accresciuta in alcuni teatri d'operazione all'estero e l'appoggio alla Francia nella lotta contro l'ISIS in Siria, citando, come ha fatto il giorno precedente il presidente francese François Hollande nel suo discorso davanti alle Camere riunite, una clausola di difesa comune del Trattato dell'Unione, in cui è previsto che in caso di aggressione verso un paese europeo tutti gli Stati membri gli siano solidali. È la prima volta che questa clausola, l'articolo 42.7 del Trattato dell'Unione, viene applicato e non sono necessarie, dice Mogherini, ulteriori formalità. Così precisa il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Sconfiggere il terrorismo non lo si fa solo con uno scatto, una lunga marcia. È in gioco il ruolo stesso dell'Europa e dei cittadini europei. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Francia, che ha annunciato anche di voler sforare il patto di stabilità. La sicurezza vale più della stabilità. La linea che arriva da Parigi e rimbalza a Bruxelles, dove proprio oggi sono arrivate le pagelle su tutte le manovre finanziarie, compresa quella italiana. L'Europe doit le comprendre. Il est temps aussi que l'Union européenne, que la Commission comprenne aujourd'hui que c'est un combat qui concerne la France, mais qui concerne aussi l'Europe. Una presa di posizione netta, quella del premier francese Valls, che avanza così un'altra richiesta a Bruxelles. La Francia non potrà rispettare i criteri di bilancio perché dovrà necessariamente rafforzare la sicurezza. L'Europa deve comprenderlo e deve aiutarci. A stretto giro la risposta del commissario agli affari economici, il francese Pierre Moscovici, secondo il quale è ancora troppo presto per includere questi costi e per capire quale sarà l'impatto, dice. Ma di certo l'Europa comprende, gli attentati di Parigi indurranno la Commissione europea ad avere un atteggiamento più morbido. Il y a une chose qui est claire sur les circonstances actuelles, c'est que la sécurité des citoyens en France et en Europe est la priorité absolue et vous pouvez être certain que la Commission le comprend. Ma oggi è anche il giorno in cui arrivano le pagelle sui bilanci di tutti i paesi dell'Eurozona. In generale la sufficienza se la giudicano tutti. Nessuno infatti è stato oggetto di non conformità grave. I più virtuosi: Estonia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Slovacchia. Per l'Italia rischio di non conformità per via di una deviazione significativa dal previsto percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio. Di fatto passa l'esame ma è rimandata a marzo, quando l'esecutivo comunitario formulerà il giudizio, valutando i progressi sulle riforme e se le richieste di deviazione dai target di bilancio sono usate effettivamente per aumentare gli investimenti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E intanto anche il Parlamento europeo ricorderà i fatti di Parigi. Tra un'ora alle 15 nell'emiciclo di Bruxelles si terrà una cerimonia di commemorazione delle vittime degli attentati. Allora continueremo a raccontarvelo in GR24. Un saluto da Anna Migliorati. Vi ricordo l'appuntamento con l'Europa come sempre anche oggi ad effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.